Sì, stiamo parlando anche in questo caso di un appalto e di un appalto storico della cultura bolognese, perché ci sono lavoratori che prestano l'attività al servizio di aiuto assistente bibliotecari nelle biblioteche comunali di quartiere e nella sala borsa, che comunque ha sempre costituito una sorta di fulcro della del sistema bibliotecario comunque culturale bolognese, e sono impiegati lì da più di 20 anni e molte volte anche con contratti part time di pochissime ore settimanali. Anche loro hanno subito naturalmente le gravi difficoltà del lockdown, perché naturalmente si sono passati quasi 3 mesi di totale chiusura, quindi di ammortizzatori sociali e quindi comunque sia una grave crisi di reddito personale. E alla riapertura, quindi alla fine del lockdown, con una città in progressivo ritorno alla normalità e alla quotidianità, anche i servizi delle biblioteche sono pian piano ripresi, hanno riaperto. Ovviamente nel rispetto di tutte le norme le nuove norme a tutela della salute anticontagio che tutti noi stiamo vivendo, ma ciò nonostante questi lavoratori ancora si trovano ad essere impiegati e quindi a tornare al lavoro per circa il 30-45% delle proprie ore, già in partenza comunque non sempre a full time, quindi una situazione che sulla loro pelle si sta consumando ancora. Per loro possiamo dire che il lockdown in parte non è mai finito. Sì, quindi insomma meno della metà dello stipendio, poi ovviamente le ore lavorate se sono dal 30-45% vuol dire che anche lo stipendio è il 30-45%. Beh, quindi... no, ovviamente la restante parte è coperta dagli ammortizzatori, ammortizzatori sociali, finché ci sono, finché ci saranno, e ovviamente con il pericolo degli ammortizzatori sociali ordinari, che comunque sia, diciamo, in qualche modo sono una sorta di manifestazione di crisi. Ovviamente adesso stiamo utilizzando ancora questi ammortizzatori sociali in deroga e quindi si sta cercando comunque in qualche modo, con gli strumenti previsti del caso, di andare a ricoprire quella perdita di lavoro che comunque è ancora presente. È ovvio che, diciamo, non ci si capisce, ci sono molti interrogativi, e da qui viene il nostro incontro, la nostra richiesta di incontro al comune verso questi lavoratori, perché appunto non si capisce come in una città che non si ferma, in una città che sta tornando alla normalità e sta riniziando a garantire quei servizi culturali delle biblioteche al cittadino, all'utente, ancora abbia una grossa fetta del loro mondo, che sono questi lavoratori, queste lavoratrici e questi lavoratori in appalto, ancora in estrema sofferenza. Certo, ecco, tra l'altro, come dire, la sofferenza è attuale, però voi siete preoccupati anche per la prospettiva, perché poi questo appalto scadrà. Esattamente, a fine anno è prevista la scadenza dell'appalto e noi qui ad oggi non abbiamo avuto comunque garanzie. Diciamo che l'incontro con il comune che abbiamo richiesto, ci auguriamo serva per avere qualche dato in più e possibilmente anche qualche certezza, qualche garanzia. Questo perché non vogliamo che la crisi data dall'emergenza Covid o comunque da qualsiasi altro discorso, come può essere il superamento delle istituzioni biblioteche o qualsiasi proclama, chiamiamolo, politico che si fa in costanza di impegni elettorali o comunque provenienti appunto dalla politica, non vogliamo che si trasformi in un taglio, comunque sia in un arretramento di diritti. Purtroppo qui parlo a livello generale, sappiamo che in altre città italiane comunque sia l'attenzione su questi appalti è alta, sappiamo che Bologna non è l'unica, diciamo, che fa questo discorso e le lavoratrici e lavoratori di questi appalti lo sanno, però purtroppo anche a livello generale, cioè già a partire dal livello generale, il cambio d'appalto, i termini di appalto sono sempre sinonimo di paura, ma paura di perdere diritti, paura di perdere retribuzione, paura di perdere di perdere ciò che magari si è anche conquistato negli anni passati. Ovviamente questa è una cosa che a livello generale non deve passare, soprattutto quando in questo caso nel frattempo si parla sempre più spesso di cultura, ripartenza dalla cultura, investimenti nella cultura, e qualsiasi discorso si possa fare a latere non deve toccare comunque sia i diritti di queste lavoratrici e lavoratori che essi stessi da tanti anni contribuiscono alla cultura cittadina stessa. Certo, ecco, voi avete chiesto, come già dicevi, appunto un incontro con l'amministrazione, è stato già calendarizzato, vi hanno risposto? Sì, sta per essere calendarizzato, ci aspettiamo appunto, come dicevamo, non tanto quei proclami di cui prima, ma risposte certe, cioè questi lavoratori in piena sicurezza e nel pieno rispetto di tutte le nuove normative a contrasto del contagio, di distanziamento sociale, quindi appunto di questa lotta che stiamo facendo verso questa pandemia. I lavoratori non fanno altro che chiedere di tornare a lavorare, di recuperare quelle ore perse, di tornare anche loro alla normalità, e chiedono la garanzia della propria occupazione e del proprio lavoro per il futuro. Quindi sarà una richiesta specifica che si fa al comune, e ovviamente rendendoci disponibili al confronto, inteso che questo incontro con il comune ci piace pensare che sia un punto di partenza.